Direi 10 secondi alle 8 precise, i Journey di Open Arms. C'è qualcuno di voi che ha problemi? If you have a problem, if no one else can help, and if you siamo can qui find, per questo. Maybe you can hire the A-Team. Fare burro rock and roll. Siamo riusciti a resistere alla prima ora di diretta. Adesso dobbiamo farcene un'altra. Beh. Ma gli affamo. E tu là fuori, gli affai o gna fai? 335-100-7777. Tanti continuano ad arrivare i messaggi. Oh, mi piace sta cosa che vi fermate con il numero della patente. Molto carino. Andremo avanti a leggerli. Vi devo sgridare per quanto riguarda le domande, o meglio le risposte che avete dato, ma lo faccio più avanti. Adesso devo occuparmi di quelli che si svegliano adesso. Sì, lo confesso, con il weekend che abbiamo affrontato non siamo stati dietro alla solita ricerca del brano delle 8, quindi quest'oggi improvvisiamo un po'. Un amico ci faceva notare qualche settimana fa che non sarebbe stato male svegliare i radioascoltatori delle 8 con Sunday Morning dei Velvet Underground. Anche se non è domenica, è vero, però è dolce uguale, quindi quest'oggi vi svegliamo così. Un po' teneri, no? Pane, burro, rock and roll, ed è subito amore. Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will come. It's nothing at all. Sunday morning. Lunedì 1 ottobre abbiamo finalmente le buone notizie, ovvero i tanti auguri a te. Mi piace vederla così in forma di lunedì mattina, caro Antoni. Ma mi dà questa energia il burro e il pane del rock and roll. Sì, più o meno, ho capito il messaggio. Il messaggio era questo, non sono ancora del tutto sveglio. Lei mette insieme i pezzi e veda se ci si raccapezza un attimo. Partiamo ricordando il grandissimo Walter Matthau, che grande attore. Il primo ottobre del 1920, ci ricordi subito qualcosa? Colpo di eccolo scena, lì, no? Eccolo. Allora, Walter Matthau, o sì. Matthew, Matthau, o Matthau, sì. Sì, è un famoso attore statunitense, certo, sì. Ahimè, morto nel 2000, ecco, sì, che è stato qualche famoso film, per il suo... Sì, naturalmente ricordo ogni cosa. Sì. Ricordo il sodalizio con Jack Lemmon. Oh, eccolo lì. Due anni dica... La strana coppia. Oh, eccolo lì, la strana... Non per soldi, ma per denaro. Sì. E prima pagina. Ah, un capolavoro ambientato nel mondo del giornalismo americano primi del Novecento. Se gentilmente abbandona questo corpo e torna in Fricantoni, saluterei anche Jimmy Carter. Nato nel 1924. Risposta esatta. No, è stato il 39esimo presidente degli Stati Uniti e vincitore del premio Nobel per la pace. Pure lui, un premio pure Nobel. Lui. Sui premi Nobel dovremmo studiarci qualcosa. Stiamo particolarmente attenti, siamo molto attivi sul discorso del premio Nobel. Ma vogliamo... Sa che vendeva noccioline Carter? Carter, davvero? Sì, Arachidi. Il famoso, esatto, iniziò, così racconta una sua famosa autobiografia, o biografia che dir si voglia, vendendo... arachidi, noccioline. La realizzazione del sogno americano, dalle noccioline alla presidenza. Bravissimo. Fantastico. Il sogno americano realizzato in pieno. Io proseguirei con Philippe Noiret. Grandissimo attore di origine francese. 1930. Tanti auguri, se venne al mondo. Se me lo ricordo con la voce di Fricantoni glielo chiedo, se non li ricordo io. Qualche film di Noiret. Ma non so. No, ecco, allora li ricordo io. La grande abbuffata, Amici miei, Nuovo Cinema Paradiso e Il Postino. Chiudiamo in bellezza, via. Sì, con una showgirl italiana nata in un anno estremamente significativo. Provo a ricordarlo, 1954. Risposta esatta. Esatto, molto giusto. Milly Carlucci, grande Milly. La bravissima, bella, brava, un filino prima della classe. Sì, acidina. Sì, un filino. Sarà l'anno che dà quella... Così, troppo sicura di sé, sempre, sempre preparatissima. Comunque auguri, Milly. Comunque, brava, Milly Carlucci, bravissima. Lei vorrebbe avere una mamma come Milly Carlucci? Anche no. Per i soldi. È rock, no, Milly Carlucci. La escludiamo? La escludiamo. Non le diamo la patente? No. Ma certamente un nostro saluto. Ciao Milly, ciao anche a Carlucci. Thank you. bel brano solare, quello che ci vuole per gente che non ha dormito. Chior, Spadino, non chiudere gli occhi, non chiudere gli occhi se no ti addormenti. La foresta, Forest, è la diretta di quest'oggi, 8 e 11 minuti primi, sempre in forma per questa 21esima puntata. Io tornerei a vedere cosa succede al 335-100-7777. Il saluto che vado a fare a Eli Rock, questa la firma. Questo è dedicato a coloro che, non essendo di Milano, ieri si sono persi la patente. Sentite cosa ci racconta. Caro Ariele, ieri sera sulle note di I gelati sono buoni ho dovuto lasciare la fila per la patente per seguire il fidanzato arrabbiato. Stamattina il bilancio è fidanzato incazzato e moduli per la patente non consegnati, quindi zero patente. Mi aiuti a riconciliarmi con le patenti da vero rocker, cara Eli Rock? Puoi rifarti questo sabato all'Alcatraz, è l'unica cosa che posso dirti. Magari lascia il moroso a casa, potrebbe essere una buona idea. Da Eli Rock passiamo ad Elena, Milano. Grande concerto ieri sera con le patenti da vero rocker. Mi sento un'altra, grazie. La domanda invece di Stefano: ma si può ascoltare la trasmissione senza patente? Perché a guidare senza patente due omini blu se la sono un po' presa. No, si può, beh certo che si può. Anzi si deve. Ascoltandola poi potrai meritarti la patente da vero rocker. Un saluto al 169. Si firma il napoletano numero 169. Mi sento veramente orgoglione di averla ottenuta. Ariele, sei da fumetto. Mentre il maestro è semplicemente straordinario. Ma guarda, che orgoglio! Un saluto anche a Smendlox. Tra l'altro, compilando le patenti, abbiamo conosciuto tutti i vostri soprannomi. Ragazzi, stiamo messi bene. Buongiorno Ariele Freak, sono immerso nel traffico di tutti i giorni, ma con un sorriso, anzi un ghigno nuovo, quello che solo un vero rocker può permettersi, anche nel traffico milanese. La patente aumenta la qualità della vita. La miseria. Sono contento di tutti questi messaggi, devo confessarvi una cosa, in tutti questi anni nei quali il più delle volte erano i radioascoltatori milanesi a lamentarsi che noi di Rock FM si andava sempre a gozzovigliare da altre parti. Dai, abbiamo pareggiato i conti con questa cosa della patente da vero rocker, che è partita da Milano, ma promettiamo, anzi, invitateci. Organizziamo dei garage party in casa vostra, io e Freak, veniamo via a poco. Poco però, Ma si fa una colletta. Qualcuno ha anche osato dire che le patenti si potevano vendere. Non dico chi, ma posso dirvi che mi sono opposto fermamente. Le patenti davvero rocker si devono meritare. Un saluto anche a Steno, che commenta sempre ieri sera, che era a Cascina Molue nella festa per i 10 anni della birra cruda. Commenta: 10 anni di birra cruda, lo sapevo, avevo scelto il giorno sbagliato per smetterla di bere. Lo so Steno, è sempre un giorno sbagliato per smettere di bere, no? Lei parla con gli angeli, Black Crowes. Never mentions the word addiction in certain company. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. Everything all right. of hair in her pocket. She wears a cross around her neck. Yes, the hair is from a little boy, and the cross is someone she has not met. Grande band, She Talked to the Angel. 8 e 20 minuti primi, questa è la 99esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. L'unica certezza di questa trasmissione è che ogni santissimo giorno di diretta vi abbiamo proposto un test attitudinale, quindi tra pochi minuti ovviamente andremo con la domanda di quest'oggi, con le relative soluzioni, e sarà la 99esima domanda. L'avevo promesso sgridare il pubblico milanese di ieri sera, che per guadagnarsi questa patente davvero rocker ha dovuto rispondere a un test attitudinale. Il test era abbastanza semplice. Prima di tutto mi complimento con coloro che per segnare la risposta, anziché utilizzare la birra, hanno utilizzato la sigaretta. Mi sembrava molto rock. Abbiamo parecchi fogli bucati con la cena, con la sigaretta, con il braciere della sigaretta decisamente rock. Ma occupiamoci delle domande. Erano 5, erano tutte decisamente semplici. Una chiedeva i titoli, erano tutte domande già andate in onda, come avevamo promesso. I titoli degli album dei Led Zeppelin, con delle risposte talmente assurde che si azzeccava per forza. Chi sono i Fab Four? E anche lì c'erano delle risposte talmente assurde che si azzeccava. Chi sono gli Hells Angels? E anche lì le risposte erano semplici. Cos'altro c'era? Cosa fa Sid Vicious scendendo le scale del video di My Way? In molti hanno risposto si scaccolava, sbagliando però. Era, sparava al pubblico. Una domanda però ha gettato nel panico quasi tutti, in pochi l'hanno azzeccata, ed era la domanda riguardante la Acid Queen della trasposizione cinematografica di Tommy degli Who. Chi era, recitava la domanda, la Acid Queen? Le risposte possibili erano Tina Turner, Janis Joplin e Freddie Mercury, la stragrande maggioranza ha risposto Janis Joplin. Forse si sono fatti distrarre dalla Acid Queen, insomma, dal nome, dall'appellativo. In realtà la risposta esatta era Tina Turner. Questo per rispondere anche a chi si preoccupava, ma l'avete data a Cani e Porci o a chi ha risposto bene? No, ben data a chi ha risposto bene. Confesso che il test era abbastanza semplice, come sarà semplice anche quello di quest'oggi, tra pochi minuti in diretta qui su Rock FM, e come sarà semplice quello che presenteremo ancora sabato all'Alcatraz di Milano per i 17 anni di Rock FM. Ora però è tempo di rockeggiare, come sempre qui su Rock FM, di Purple. Suonino le chitarre, trum, trum, trum, no, il tamburo. Sono un po' scombinato. L'irrefrenabile Roberto Fricantoni, scombinatissimo. Me lo dica che è pronto. Sono pronto ma scombinato, sì, quello si vedeva lontano un miglio. Per il test attitudinale, ecco per cosa siamo pronti noi a Pane, Burro e Rock'n'Roll. Certo, per i forse non tutti sanno che, esatto, applicati al rock. Esatto, quest'oggi è proprio un forse non tutti sanno che. Ricordiamo comunque che i test attitudinali valgono per ottenere i punti per la vostra, sì, patente da autentico rocker. Mi piace molto anche quando li tranquillizza: nel caso non azzecchiate la risposta. Naturalmente, ecco, potrei aggiungere che nel caso non abbiate scelto l'opzione giusta, la risposta esatta, continuate ad ascoltare e la vostra cultura rock aumenterà d'incanto, per cui riuscirete poi a fare molto meglio. Dicevamo, forse non tutti sanno che i componenti di una delle più importanti band di progressive rock italiano, ovvero la premiata Forneria Marconi, iniziarono a suonare nella seconda metà degli anni 60 con il nome di I Quelli. Ricordate chi fu ingaggiato ai tempi come primo cantante della formazione? Le solite tre opzioni, tre. La prima, Dario Fo. È forse lui? Risposta numero due, la B, ipotesi B, Teo Teocoli. Forse è questo quello giusto? E infine, ipotesi C, risposta terza, Beppe Grillo. E allora chi cantò ne I Quelli, il primo nome della formazione PFM? Dario Fo, Teo Teocoli o Beppe Grillo? Come al solito, la risposta ve la diamo tra poco, la soluzione a dopo.